Io ci sono, sono. Stanno mettendo qua, se mi scende, devo aumentare, ancora da su. Ma a me deve essere che fa slitto il pulsante del mic che fa cambiare ogni tanto il canale, quello di sotto. No, invece è il cambiare il canale. Chiaro, tranquillo, Radio 5 è, come si posso dire, chiarissimo, così non si posso dire. Sì, questo è clarificato fino in tutto, facciamo ancora la regolazione, però la cosa è una massa, che la regolazione è da capire questo, non dare che si riesce da una marea. Dopo ho detto qua, dai, c'è da saltare, dopo andiamo a saltare, dai, questo, salta, c'è anche la tua ventolina che ho avviato, veramente, c'è la vita, quella che c'era anche toccata, un po' c'era questo, la piante, e ci aspettiamo che si salde bene. Ma adesso d'inverno probabile la ventolina, io te l'ho detto, l'ho acquistata da Antonello, la posso anche già usare, ma la sto usando, come si dice, nuda e cruda, sarebbe senza, non gli devo fare altro niente, si mette solo dietro, di dipatori e poi si fa marciare, vuol dire, questa è una cosa, una cosa che stai dicendo? Ho detto che ce l'ho anch'io una ventola acquistata da Antonello, che si mette dietro i dissipatori, ma ancora è inverno, questo apparato non sta da più di tanto, per tanto sì un po'. Resiste, ma non penso che sia nodo per il saltare, ho detto, le tante sì, tante la mata, sta totalmente giù. Ma non bisogna farsi altra modifica alla ventolina, no? Si mette così, io mi stavo dicendo, nuda e cruda dietro e basta, non è che vuole. E poi no, devi metterla nel senso giusto, penso, che una parte a guida e l'altra parte manda, no? Non mettono notizia, perché non sono notizia, perché non c'è il calcio di calore, però ad un certo punto, questo mi sono stati tutti, la mangiata maledettamente, cioè la mano sopra, non c'è il calcio. Addirittura, allora si potrebbe cucinare l'uovo lì, perché ha messo un pompolino, cucina l'uovo. No. E poi mi guarda come contento che ha trovato il cucino sul massimo, cioè c'era la regolazione, però non c'è il pigliato da quando stanno ombrando, c'è la sua mano, no, con la sua. C'era la regola che dà il 1 e qui c'è ancora una volta c'è la possibilità di usare delle varie dei cieli per varie regioni, ma non è vediamo, dai, dici quale momento fai. E K, ho visto un qualcosa anch'io del mio apparato, del CX10, e dice che è digitale, e si può fare, cioè si può adattare a parecchie cose. Non ho continuato più a approfondire il discorso, però addirittura si possono inserire nella scheda, perché anche da computer qualcosa, e si può programmare tramite computer, e quello è bene, no, non c'è da tanto, no, non c'è da tanto. E così è basta. Adesso già qui hanno fatto una cosa, questo va a prendere un infatti ho visto dietro all'apparato c'è la tappa USB da computer, capito? Possono mettere qualcosa, non lo so, dovrebbe essere uno che ne sappia, che capisce cosa mettere, cosa non mettere. Forse anch'io, infatti non è che sia solo facendo, cioè pensando ad alta voce, anche a me non mi serve, il dialogo, cioè questo locale, roba locale, nel senso intorno al nostro paese, diciamo, Sassari, Itili, Uri, sottorre da viva, perché ci vogliono anche gli altri che ci devono anche arrivare, perché se lo fai tu gli altri non ne fanno, non trovi nessuno. No, ma io devo avere cose di dedicare, dotarmi, per esempio quello dotato, devo tenere, diciamo, di vuoto, posso tenere il senso bene, state fare ormai una volta il punto, se ho capito, un po' controllo da utilizzare, ma per faccio meglio, penso, io penso che non qua, però la faccio tu, non devo nuovamente, dedicare, dotare, come devo fare, questo è il senso, ovviamente c'è un po' di Sì, quella è la ricerca automatica. Ma non è che la batteria tampone, si chiamano batteria tampone per le manuria, non si carica a sufficienza, e per quello perde la memoria della roba programmata. Ma a me ci abbia una batteria di due, che non ne ho visto. Non so se tutto per tutti. tu io te lo ricordi, no? È tutto piccolo, hai visto quanto è minuscolo, anche i bruttantini, quegli 8 che ci sono tutte le manovre da fare, è un casino, è un casino. E c'è ragione, potrebbe anche quello riprogrammare tutto. Non dico che è un fastidio, però è una scottatura. Confermo perché è anch'io superato quello che stai dicendo tu, e c'è poca anche la memoria perché non è più pronta come era un tempo, è lenta, viene la cosa diventa, come si dice, al rallentatore quando si arriva e quando si diventa più altre ampie, capito? Io avevo un portatile TTH-78 della Kenwood. Se io ti dico che i transistor erano cappuccia di spillo di quegli spillini piccoli, a che credi? Erano così adesso, perché sono apparati molto composti, si permette l'auto, è un piccolo, perfetto. Mi raccomando, è solo 9 minuti per farle sole, capito, Vali? Perché oltre poi vengono alterate. Perché ci vuole la tastatura data, ci vuole la tastatura data. Ritorniamo che state parlando di temperatura, ma le ventole queste sono tutti uguali, quadrati, con dei buchi in mezzo per fissarli. Prego. Avanti il break! Ciao Fabrizio, aspetta che c'è un QSS sotto, volevo sapere da dove arriva, che mi arriva a basso, volevo curioso più che altro. Ciao Antonio, Fabrizio. Bombolo. No, non va dentro la base, non va dentro la base. Sono l'altra è quella 9, quella è 8-0. Antonio? Avanti, chi è che è basso, basso, basso? Come basso il segnale? Pare strano. Ma chi è che stava parlando? Non lo so, sono bassi, volevo capire chi erano per curiosità. Ah, tu sei a bomba, sei qua. Qua tu sei a bomba, chi mi sta... chi c'era sotto, non lo so. Infatti ero curioso. Se le mani anche altri oggetti, secondo dove la fuggi o si... Cazzo mia, gasino, ma ha fatto lo squash. Guardando qui, questo dovrebbe essere 10 centimetri o 10. Ancora non so quanto qual è il verso giusto per prendere le alette che prende. Caspita, propagazione a manetta, c'è un po' ci ha ammazzato, io non me ne sono racconto. Perché vedo che in una parte c'è il... ma sono in zona questi. Lì c'è un genere, dall'altra parte non c'è niente, non ci trova niente. Penso che... sia come la sono messa così e così due notti la proverò molto, mi toccano anche l'apparato, ma il pezzo io ho fatto già l'attacco a Sigaro dal mio alimentatore, c'è l'attacco di... attenzione ai canali 10, attenzione ai canali 10. Sono di... magari sono di qualche paese, no? Ero curioso, più che altro, poi c'entro poco qua per te. Ciao Fabrizio Sassari da questa parte, non è per caso mi dici la tua zona di modulazione, grazie. Allora, qui è la linea da Vieno, Siervo 5, Radio 2. Stanno sblatterando. Ho capito, Valghero. Piazza appena appena, va lì, non so chi sia, comunque ben entrato, perché è arrivato a livello di QRM, capito? Va lì, prova tu a dire se lui mi ascolta. Sì, vediamo un attimino, vediamo se mi ascolta adesso, Fabrizio da questa parte. Sì, va bene, ascolta, Alghero mi ha detto, vero? Sì, davvero. Ah, va bene, dai, allora vi lascio al vostro posto. Buon proseguimento. Sì, in genere sì, voi siete sul canale 15 e sul 10 rimane Sassari. Sassali. Cappa, non so se mi sentite. Ciao Fabrizio, ciao, ben sentito, qualche parolina ho capito di quello che stai dicendo e non so se tu riesci a copiarmi comunque 7-3 da questa, Franco Basse, ma a te va lì. Sì, ciao, buon appetito, alle prossime, ciao. Ciao, anche a te, anche a te. Ti sento molto molto molto bene, ti sento. Chiappa. Sento bene, sento. Va bene, dai, adesso la chiudo, era per capire un attimino, visto che è una caffè che ho appena chiuso e adesso allora va bene, vai, è andata bene. Babbo, babbo, sono qui in ascolto che chiudo questa cosa. Grazie, ciao. Dove è gatto? Non avete ancora finito di smontare un balco? No, quella è un'altra cosa. Ocra. Il palco è una ditta, noi un'altra ditta, noi abbiamo finito, è tutto smontato. Ed è in capannola. Sono passato stamattina. È tutto pieno ancora. La roba arriverà là. Sì. Noi facciamo l'audio e le luci facciamo. Capito? Si può fare pure un banco, ciao. No, ma lì è roba di ditta, ditta grossa, capito? Che fa questi grandi lavori. Noi facevamo il banco e l'audio. E via. E a me è toccato il compito un po' più, un po' di ciclotto. Stare su segui persone e puntare a lui dalla torre. Puntare il cantante, capito? Non sono lavoretti da niente, no? Bisogna stare attenti, bisogna essere preparati per fare anche quelle cose. Poi io sono passato stamattina, sono andato all'MD e ho visto che ancora è tutto beh, il palco c'è, comunque stavano lavorando, ma poveracci, perché stava piovendo. Lo so. Bisogna smontare perché magari c'è qualche altro vento pure. Quella roba già sono in tanti, già riesco a sbrigarsela. Certo non è nell'azienda dove lavoro io, che lavoro anche in un'altra azienda che fanno palchi, fanno che è più piccola, quella cosa lì non le fanno. Cavolo, lì forniscono il banco tutto intero, l'antipanico, tutto hanno. Ne hanno pure parecchio, passacapi, quello di tutto, beh. Capito, ma un'azienda grossa. Io me lo immagino, già gli uso articolati, me lo immagino che non è buccia di jogger. Va bene, Antonè, stavo provando se sto facendo un po' di controlli stazionari, pieve, queste cose. Bisogna stare attenti con questo tempo che sta facendo. Stavo controllando un po', schiacciato a vedere se ero stazionario, ma stazionario 1 rapporto a 1 praticamente, quasi 0. Va bene, dai, ci sentiamo dopo, Anto. Che sistemo tutto qua, ciao, ci sentiamo. Capisce che non sei molto vicino, capito? Vabbè, il segnale è sei sul più del 30 qua al mio strumento, la radio è buona. Figurati, alla prossima. Qualcuno su 10. Luca con la buonasera. Ciao Luca, ben sentito, buonasera. E allora, come andiamo? E il rientro al lavoro è stato traumatico, mi ero abituato troppo in fretta a stare in ferie, anche se erano solo 3 giorni. Vabbè dai, almeno ti sei rilassato un po', staccato la spina. E al concerto è andato, sì. Ma anche no, ho fatto cena in casa, ho aspettato la mezzanotte, a mezzanotte uno mi sono girato dall'altra parte con la signora e tanti auguri. Tra l'altro l'umore non era dei migliori perché c'è stato un lutto vicino e quindi abbiamo risolto così. Vabbè, lo so, purtroppo la vita è quella. Io invece sono andato e c'era una fiumana di gente. Guarda, io non ho mai visto tanta gente così. Non so, c'è salito mio fratello e mi ha raccontato che era non pieno, no, di più. Sì, anche per rientrare a casa, praticamente il pezzo che ti fai a piedi per andare a prendere la macchina, c'era un traffico, cavolo, da una parte all'altra del marciapiede, in mezzo alla strada, tutto pieno di gente. Come le sardine, dice che non faceva neanche andare ai chioschi a bere perché c'era una fila interminabile e una ressa pazzesca. Sì, io ho aspettato 2 ore in piedi, me la sono fatta dal ponte nuovo perché l'unico parcheggio che mi è venuto in mente è quello. Ho girato tutta la zona, a fianco, dietro, non ho trovato un buco. Sono salito al Ponte Nuovo, visto che c'è quella rientranza dove c'è quella specie di parcheggio che vabbè nessuno usa, ma io me ne sono ricordato, sono andato lì e me l'ho fatto a piedi dal Ponte Nuovo fino al quadrato. Vabbè, non è poi tanto, dai, già sei andato bene. No, mio fratello è salito qua da Viale Italia perché voleva prendere queste specie di navette che c'erano e dice che c'era la ressa per prendere le navette. Mi avevano promesso a ciclo ogni quarto d'ora, invece non passavano mai. Si sono guardati con l'amico e si sono saliti a piedi da Viale Italia sino a su. E poi quando è finito tutto se ne sono tornati a piedi. Vabbè, esatto, diciamo che la cosa più importante è stata aspettare 2 ore lì, perché io sono arrivato prima, ho aspettato 2 ore, però ero diciamo non dei primi, ma ero proprio vicino al palco. No, lui era a metà sulla destra. Eppure io ero più o meno così, un po' prima della metà, però. Vabbè, comunque l'ho visto bene, il concerto è stato bello, dai. L'unica cosa che ha fatto schifo è quei due che hanno cominciato a dire parolacce a tutti, ma per carità, da dove, da che pacco di patatine li hanno tutti, mi presentato. Ma io poi sulla rete, qui su Facebook, ho visto un po' di immagini, ma chi era volgare era lui che ha sgarrato forte. Lei, i filmati con lei che diceva parolacce, la verità non ne ho sentito. Ho sentito lui che di seguito ha detto quello che stava facendo il cantante, e poi grazie a Grazietta e tanti auguri, ma sempre lui. Ma lui è sempre stato un poverino, per carità. Mi sembra signorini. Ma da dove hai vinto? Da un gorro mano della foca che te lo butta. Il nostro operatore Lucci, Antù. Antù era sulla torretta con le luci. Io dovevo fare, seguì persona, dovevo fare. Le luci c'era Adriano Zampa. Adriano Marras c'era le luci. Io ero su. Seguì persona. Avanti. E una carabina non ce l'avevi per buttarmelo quel presentatore? Un attimo che sono parlando, avanti il break. Sì, ti sentiamo, io ti sento, avanti. Poi Antù, doppio uno a questa parte. Ma con che cosa stai uscendo? Con qualche filo? Sei basso, ma già ti ascolto io. Non so se ti ascoltano gli altri, sono in compagnia di Antonio Bombolo e di Luca, avanti. Luca da questa parte purtroppo io non l'ascolto. Ancora lo ascolti a sceriffo? Basso l'ascolto. Luca, da dove stai modulando? Io sono tra via l'Italia e via Budapest. Ma sei nuovo, sei? E diciamo che sono rigenerato, là. 25 anni fa modulavo forte e poi avevo messo tutto in garage e adesso mi sta riprendendo e ho riacceso qualche stufetta, anzi stufetta, qualche verruveccio, però mi sto organizzando. Vabbè, non arrivi male qua, io sono qua latte dolce già, ti sento abbastanza, sicuramente sei con un antennino, vero? Momentaneamente c'ho un antennino con base magnetica sui fili per stendere ed è un antennino che non ha frusta ma è alto solo 32 cm, per cui esco da mezzo ai palazzi, però sono in attesa che mi arrivi l'antenna. È abbastanza, penso che mi senti abbastanza forte. Capa, qua arrivi a palla. Io c'ho l'antenna sul tetto, andrà sul tetto. Sì, mi è toccato anche inquadrarli quelli lì con segui persona. Segui persona praticamente è quel cannone che quell'affare che fa la luce sul palco, capito? Che fa il cerchietto, poi lo puoi tarare come vuoi, capito cosa è? Vabbè, ma bisogna essere molto attenti con quel parolino, devi essere molto concentrato. Sì, bisogna stare attenti, sì. Ma l'ho fatto abbastanza bene. Sono riuscito abbastanza bene a inquadrare. È la prima volta che lo uso? La seconda, una volta per Beppe Grillo. Ah, ok. Vabbè, piano piano. Avanti Antonio, il sceriffo. Chiamoso il sceriffo. Ma devo dire, butto d'ora? Eia. Arriva bassissimo, arrivato. Vabbè, ma ai tempi suoi il sceriffo ci va forte. È che l'ha abbandonato un po' la frequenza e poi adesso c'è tutto il rimasuglio delle antenne che gli sono rimaste. Capo. Comunque cioè, la verità era più quella, cioè ha fatto figure di un ghiso baragnotta, ha fatto la figuraccia, ma era più lui che lei, lei era un pochettino più una ciabellona, pareva una bubbia quando si è vissuta, era difficile da dare da un banco prima di esibirsi. Era più lui che lei, e lei già un pochettino già più contenuta. Ma di dove sono questi due? Cioè fanno teatro. Lui è di Sassari e lei è di Mores. Vabbè, comunque. No, non sono piaciuti, l'hanno bruciati. Basta dire che l'hanno fischiato, anche se un amico mio mi ha detto, vabbè, sono comici, lo fanno per co-". Ma cosa comicità, chissà, maleducazione, da considerare che ci sono anche bambini, ragazzini e cose, ma lascia perdere, che sono sboccati. Se fosse stato a chiamarli per fare i comici era un conto, ma nessuno gli aveva chiesto di fare i comici, dovevano presentare la serata, perché non erano comici tipo Angelo Duro che è volgare, però se tu vai a uno spettacolo di Angelo Duro sai che stai andando ad ascoltare certi tipi di cose, ma in una platea così vasta e così varia, da bambini, adolescenti, ragazzini, beh, certe volgarità. Ma risparmiate, non te l'ha chiesto nessuno di essere spiritoso, facevi il presentatore professionale e tutto. Secondo me il fatto anche che il cantante non ha salutato Sassari, non ha detto due parole, secondo me ha sentito quella battutaccia che ha fatto e magari ha pensato pure di andarsene e mandare a cagare tutti. E magari si è anche offeso, capito? Si è anche, perché c'è, non so cose da dire io. Ma dimmi tu, io quando l'ho sentito pensavo di aver capito male, ti giuro. Ma infatti la gente l'ha fatta a pezzi e ha cominciato a chiamarlo signorini e è tutto il resto, perché veramente è stato squallido. Lei è dovuta stare al gioco perché sono colleghi, hanno la scuola di recitazione, fanno teatro, eccetera. Ma secondo me poi in privato hanno anche bisticciato, perché lei un po' la conosco da lontano, ma non è così volgare come lo è stato lui. Secondo me hanno anche litigato, la verità. Lui boom, vabbè, diciamo che si qualifica da solo, ha dato l'idea di quello che realmente è. Proprio hanno visto che hanno fatto l'insuccesso che c'è stato, e sicuramente si avranno fatto un esame di coscienza, no? Perché tutta la gente era fischiati. Parliamo di due dragoni, detto chiaramente. Se vai sulla loro pagina Facebook, sulla pagina del presentatore, e vedi i commenti che gli hanno messo, l'hanno fatto a stare, che mi hai levato un fosso e mi sei cancellato anche da Facebook. Eh sì, perché non c'era solo gente di Sassari, mi capisci? C'era gente che veniva da Continente, da Cagliari. Io ho copiato, non so se c'eri anche tu, che c'era questo camperista di Cagliari che stava cercando un parcheggio per il camper, perché dovevano sostare per il concerto. Quindi ne è venuta da tutte le parti di gente, capito? Non c'è solo gente di Sassari. È brutto, capito, far vedere questo rozzumine, perché è un rozzumine quello che hanno fatto. Sì, Cappa, io nei filmati che ho visto, che hanno pubblicato su Facebook, si sentono i commenti di ragazzi romani che sicuramente hanno seguito e sono venuti qua proprio per questo cantante, che comunque è un grande richiamo, cioè fa concerti da 85.000 persone, non è l'ultimo stupido, che piaccia o non piaccia, e per la mia età comunque ci ha accompagnato con le canzoncine di quando avevo l'età giusta, ecco, per cui insomma un po' di simpatia c'era, è molto seguito, e c'era gente che si è preso la nave, l'aereo per venire a sentirlo, e poi come biglietto da visita dei due presentatori sassaresi hanno fatto questa uscita che ci ha fatto fare una figura di merda a tutti, sindaco compreso e tutto, nonostante abbiano fatto una grande serata che forse a Sassari così grande non si era mai vista. Sì, ma la serata era tutta per Massi Pezzali, non certo per loro. Non vedi che sono senza voce, che me le ho cantate tutte le canzoni. Anche per i DJ che sono stati bravissimi, sono stati, allora, veramente, la cosa che mi fa più girare le balle, che mi fa incazzare da morire, hanno detto che c'è un suono di merda, ma vattene a cagare che non capisci un cazzo, scusate per la frase, cioè no, non mi comprendi di nulla, cioè, c'è un impianto nuovo appena arrivato in Sardegna, ecco. Cioè, da noi risultava che era perfetto il suono e tutto, cioè, guardando anche la grafica dice che non è... Ma fatemi a cagare! E vabbè, la gente c'ha sempre da dire, però su quei due presentatori tutti sono d'accordo, quelli si dovrebbero fare un fosso e non farsi più vedere, perché non è certo il massimo che hanno presentato come biglietto da visita. Ma a me hanno detto che il check sound fatto il pomeriggio con il tecnico del suono del service, diciamo, era perfetto e si sentiva benissimo. Poi è arrivato il tecnico del suono di Max Pezzali che ha messo le mani e un po' ha storpiato le cose. E mi hanno detto anche che se lui si muoveva sul palco, se andava sui bordi a destra o a sinistra, il microfono radio, il radio microfono funzionava male, che funzionava bene solo quando era al centro del palco. Non è vero un cazzo. Boh, io sono voci che mi hanno detto, perché ripeto, io ero a letto in posizione orizzontale guardandomi la televisione. Ma quanto sono bugiardi sono. Ma secondo te non ne avevano uno, non ne avevano uno che l'avrebbero cambiato subito? Ce l'hanno di scorta, ma veloce sarebbe cambiato. Quindi sono problemi loro, della produzione loro, tra l'altro. E poi non è vero niente, perché io stavo ascoltando, ero proprio lì nella torretta, cavolo, sentivo tutto io. Non è vero niente, fauraggi, cazzo. Io sentivo la musica, che non la distinguivi, però sentivi il sottofondo dei bassi, dum, dum, dum. Da casa mia, e sto parlando di Viale Italia, quindi già uscivano di fatto. Certo, ma si uscivano, ma sto scherzando. Cioè, la gente all'impianto, poi quell'impianto l'airway va ascoltato non sotto il palco, ti devi spostare, perché se no prendi le botte e prendi dai subwoofer, ti devi spostare in una certa maniera. Se ti sposti in una certa maniera senti giusto, senti se ti suono giusto, cazzo, non ti puoi mettere sotto il palco, che ti arrivano i sub, cazzo, che ti spaccano la, cioè te ne fanno tornare tutto quello di un mese, te ne fanno tornare, perché ti dà certe botte, ti dà, e poi soprattutto quelli lì che sono di quelli massicci, sono da stadio, sono fanno un fuoco che da paura fanno. Cioè, l'impianto ti devi spostare, allora quei tipi di impianti lì, per sentirlo bene devi spostare almeno 25 metri, per sentirlo perfetto, non puoi stare sotto il palco, se no senti, cazzo, le botte senti. Lo so, perché qualche palco l'ho piazzato in vita mia quando lavoravo con un service, e non c'erano ancora neanche le turbo sound, quelle celesti, ma c'erano le vecchie casse dove c'erano i woofer, i midrange, i tweeter, dove i woofer erano grandi quanto un metro cubo d'acqua, e a carrarli bisavano un cantone. Questo però l'impianto live non sono come quelli che c'erano una volta. Quelli hanno una coda cilindrica, cioè praticamente il suono viene diviso in una certa maniera e te lo devi sentire in una certa maniera. Cioè, la regia di solito si fa 50 metri con un impianto del genere, anche se ti muovi solo a 10 metri ti fulmineggia, cioè ti spacca le orecchie, me, capito? Infatti se tu guardi le regie tutte sono a 50 metri in su, perché allora sì che lo senti bene il sound, ma se ti muovi sotto un palco ti cudi 3 cimbizze che ti capottano ogni azocco. Cioè, mi sono avvicinato io, cazzo, era ancora impressionante, e cazzo sono stati anche divisi su, beh, non sono stati messi in verticale come dovevano mettere, ma facevano un tocco tremendo. A rugori di Bigliani, ce lo senti nel cuore? Sì, sono quelli proprio che toccano le voci. Oh già, cioè non ti puoi mettere solo, quelli cazzo per ascoltare la merda, da 20 a 25 metri ti devi mettere, per sentire il sound perfetto. E io ero, diciamo, tra i primi, ma non ero proprio davanti, dai, ero in mezzo, al centro, dai, quasi al centro. E si sentiva bene, ma la musica era fortissima, specie quando hanno fatto quei DJ che ha fatto la musica techno, cazzo, lo picchiavo. No, sto dicendo, picchiano parecchio, chi era davanti, cazzo, come te minimo se ne è andato un po' così, se ne è uscito, ha scinturato, se ne è uscito. Non bisogna, cioè, quando una cosa del genere, non bisogna mai stare sotto il sub, perché ne esci, cazzo, ne esci bombardato, ne esci, ha che fatto un tocco terribile. Oh yeah. Molta gente si mette lì per fare le fotografie in primo piano, capito? Ma a me non me ne ha fatti nulla, lo zoomavo e zoomavo sul tabellone e via, e lo facevo lo stesso. Cappa. Gli impianti sono così, sono già, ma l'impianto importante, quello è un impianto importante, è il figlio della DB Technologies, cioè un impianto è quello più potente. gente che c'è in Sardegna, non ce l'ha nessuno, non ce l'ha. Ci hanno sempre il VIO, sì, ma quello più medio hanno. Qualcuno ce l'ha più piccolo e più medio. Il grosso, ce l'ha Roccaus, ce l'ha in Sardegna. Ce l'hanno solo loro. E Kiss, quello lì esce, quando ci sono questi, quando ci sono i soldi. Quello esce solo in quelle occasioni, esce. Perché un impianto che costa 100.000 euro. Poi il cazzo, come cazzo fai tu a dire che si sentiva di merda? Un impianto che ti costa una barca di soldi. Così si usano per i grandi concerti, certo. E vabbè, la gente ha sempre da dire, non andava mai venuta, non hanno pagato manco un biglietto, ma vedendo che si lamenta. Ma appunto, sono veramente, allora più bello quando era che hanno fatto i balli di gruppo, più bello quello lì era, che era una giombra e la faceva ridere, dai, ma che cazzo. Vabbè, a me DJ il tipo di musica che faceva, non mi piace, dovevano mettere musica ballabile, di modo che la gente si divertiva all'inizio. Invece hanno fatto un tipo di musica molto dura. Già l'hanno messo un po' gli anni 90, l'hanno messo. Già l'hanno messo. Pensa a Dugna, per tornare all'Italia che si tindia, pensa a Dugna bomba che era. Cioè, perché pure non c'erano solo quelle davanti, c'erano anche i ritorni, c'erano. L'impianto era fatto così. Cioè, purtroppo, vabbè, quelli non ci possiamo fare niente perché non c'erano i sub, però ci sentiva bene lo stesso nell'impianto. Cioè, e quelli, vabbè, non ci puoi fare niente perché non ci sono i suoi sub. Vabbè, comunque è stato un bel concerto l'insieme, cioè se stai a vedere le cose, a me mi ha un po' deluso il fatto che non sia rimasto lui a salutare, a fare gli auguri a tutti insieme al sindaco eccetera, come aveva fatto già Nannini. Grappa, qualcuno ha detto perché non ha fatto in Piazza d'Italia, ma tu sei fatto a fare una cosa del genere? Lui ha buttato soldi, sempre le solite cazzate, guarda, chi si cazzo sono veramente una giunta. Per fare i concerti è meglio lì al quadrato, c'è più spazio e tutto. Per fare i concerti è molto meglio al quadrato, aveva voglia. A parte che in Piazza d'Italia ci sono gli abitanti e i disturbi, lì al quadrato è all'aperto, capito? Vabbè che si sente lo stesso, ma è all'aperto, ha più sfogo. A cosa mi sta mai entrando con la casa la musica quasi a qualcheduno la giocava un cazzo sento forte ma lì era in zona qualcuno che parla qua in radio dice che la sentiva molto forte a casa sua. Almeno non si è mosso, cazzo, se l'ha ascoltato da casa. Vabbè, comunque a me piace vederli cantanti, se no è come ascoltare la radio, la stessa cosa. Chiappa. Comunque no, non sta bene anche nei confronti di chi ha lavorato, di chi ha dato l'anima pure per fare questa cosa. Non stanno le critiche, se ne possono molte, si vanno bene quei due che sono stati dei grandi imbecilli, perché veramente più lui che lei, perché lei magari, se guarda, l'avevano presentato da sola si era salvata, c'era. Però certo, poteva evitarselo, veramente. Invece la battuta che ha fatto su Max Pezzali, cazzo, io penso che si sia arrabbiato. Un cannaguro, una cosa così. No, quello che ha detto che Max Pezzali era dietro nelle quinte che si faceva. No, quello l'ha detto lui, l'ha detto. Ma io l'avevo preso e l'avevo detto, scendi dal palco, io non va a più andare al banco. Beh, diciamo che Cannaguro è una sassareseria, è riferita allo Zimino, e in un certo contesto ci può, a Sassari ci può anche stare, è di uso comune, ma il resto è stato pesante e volgare. Il resto è stato... Kannaguru può strappare un sorriso perché è un'espressione tipica nostra. Sì, va bene. Guarda, se lo presentava solo lei faceva più bella figura, non ce la fate tutte cose polemiche. A quello lì l'avrei da calci in culo l'avrei preso. Ah, dove l'hanno pescato questo qua? Io non lo conoscevo nemmeno. Dice che fanno teatro, almeno di la battuta, no, non dire le parolacce, magari una metà metafora, capito? Ma non dire le parolacce, che la gente, poi come lo dice, uno sciabbo, un sciabidone. Infatti la gente l'ha bruciato, fuori, fuori, gli hanno detto fuori, fuori, fuori. Gli abbuzzoni. E certo che non saranno stati molto entusiasti delle... bello spettacolo che hanno fatto, oh yeah. Mamma corrigani, dai, no, va bene. Quei due, cazzo di dopo pure puntare non sei qui persona. Fuoco l'abbia puntato. Chissà cosa tutto gli hanno detto gli organizzatori, no? Oh, io, Sicuramente non lo chiameranno più, si ha bruciato la carriera. Io perché sono figuracce. Cioè non è che mi ha fatto fare la figura con una persona, c'erano migliaia di persone lì. Non puoi parlare così davanti a tutta questa gente che viene anche da fuori. Almeno un po' di ritegno, non lo so. E anche Massimo, mio amico, ha detto, io va bene, lo parlo perché sono comici. Sì, ma c'è un modo e modo di fare comicità. Anche che Cozzalone, le parolacce le dice, ma le dice in un modo metaforo, come hai detto tu anche. Sì, ma guarda, se aveva chiamato Pino gli anticorpi a presentare, forse era stato meglio. Beh, si deve anche saperle dire, bisogna. Cioè, bisogna saperle dire e fare un po' ridere. Se chi che abidoni, vai ammazza, di vai, fatti forruggiare la canna, vai. E hanno criticato un bel che su TikTok, da tutte le parti li hanno criticati. Sono stati contenti tutti del concerto, ma hanno criticato specialmente a quei due. Io professionalmente non posso mettere il mio commento, sennò sarebbe stato molto negativo. No, io l'ho messo. Io non lo posso fare perché ci sono quelli che gli organizzatori che conoscono me, tutta l'organizzazione, non mi posso pronunciare perché giustamente anche loro saranno mortificati e cosa, ma non posso spingermi professionalmente, capito?